La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple tries to stop. Eccoci qua alla Rosa Purpurea speciale di Natale. Un saluto da Franco D'Assisi e da un caro amico che è tornato a trovarci. Qualcuno che ci segue da tanto tempo si ricorda di Valerio Guslandi. Ciao Valerio. Ciao, buongiorno. Ciao Valerio, ben trovato in questa puntata, anche dal clima di questa canzone Rockin' Around the Christmas Tree, cantata da Brenda Lee. L'abbiamo pescata da Mamma ho perso l'aereo. Abbiamo pescato quattro brani molto natalizi che sentirete durante questa puntata speciale. Speciale perché? Perché Natale è l'altissima stagione cinematografica ed è anche una settimana nella quale esce poco materiale nuovo. Nello specifico questa settimana ci sono tre nuovi film nelle sale, sono Alvin Superstar, Franny e Masha e Orso. Tutto il resto c'era già da un po' di tempo, tutto il resto è arrivato nella settimana precedente con l'ondata di Guerre Stellari, tutto il resto sta per arrivare con l'altra ondata di Checco Zalone. E allora noi cosa facciamo oggi? Vi consigliamo cosa andare a vedere, perché sappiamo che il 25 e il 26 dicembre è una puntata doppia, una bipuntata, come direbbe Lino Banfi. Si va molto al cinema. Cerchiamo di consigliarvi genere per genere che scelta fare, cosa andare a vedere con i famosi 10 euro in mano, dove andarli a spendere, con almeno tutta la famiglia, almeno secondo noi, con tutta la famiglia o con la fidanzata o magari certo. da soli non va bene al cinema. Allora, quindi abbiamo racchiuso, come dicevo, in quattro parti il nostro ragionamento, che comincia da un genere che abbiamo, non è proprio un genere, è un gruppo che abbiamo chiamato Action and Drama, ci piace l'inglese, e perché abbiamo voluto mettere insieme i film dove c'è più azione, più adrenalina, che siano di spie, che siano di avventura o che siano di fantascienza, come appunto il caso di Guerre Stellari. E vogliamo cominciare ad analizzarli questi film, a consigliarveli o meno, con il ritorno, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, di Steven Spielberg nelle sale cinematografiche italiane con Il Ponte delle Spie. Siamo impegnati in una guerra. Questa guerra non si combatte per il momento con uomini armati, ma con le informazioni. Di che cosa è successo? Hanno preso un nostro pilota con la testa piena di informazioni classificate. Abbiamo il loro uomo. Vogliamo che lei negozi lo scambio per evitare trattative ufficiali. Dove vogliono che abbia luogo la trattativa? A Berlino Est. Dimmi che non sei in pericolo. Dammi qualcosa a cui aggrapparmi. Lo faccio per noi. E allora Spielberg che torna a cimentarsi col tema che gli è diventato veramente molto caro in questi ultimi anni: la democrazia, l'America, presente e il passato. E la storia, ma anche per stabilire come bisogna. Sono film molto morali in questo senso, sì. Molto politici e molto morali. Allora, Valerio, questo Ponte delle Spie, siamo nella Berlino degli anni 50. Guerra fredda. Proprio guerra fredda, a cavallo della costruzione del muro di Berlino. Esatto. Anzi, ci sono scene che lo ricordano anche. E la storia. È storia quella con la S maiuscola, perché è quella di un avvocato che si occupava di assicurazioni, che fa un po' da avvocato d'ufficio in questo caso di una spia russa che viene arrestata, deve essere processata per la democrazia americana, vuole quello e vuole essere diversa dal resto proprio per quello. Quanto è attuale questo tema, Valerio, molto. Oggi, e che questo uomo comune si troverà a diventare una sorta di difensore strenuo della democrazia anche quando andrà oltre cortina a difendere. Mi sembra un bello Spielberg che sulla scorta di quello che era successo con i suoi ultimi film sa indagare con un occhio molto adulto e molto sereno anche molto, su questi temi. Molto. Io credo che poi con i suoi film, rigirandoli nell'ordine in cui li ha fatti, si possa veramente riattraversare la storia del secolo scorso in modo abbastanza importante. In questo caso il tema della guerra fredda è un tema che comunque non è isolato negli anni 50, ma appunto, come dicevi, continua adesso. È un film molto solido, cioè di quei film che forse non si fanno neanche molto più di questi tempi, quindi molto, molto robusto, molto attento alla scansione del tempo che passa, alla recitazione, perché Tom Hanks comunque, qualcuno dice già che lo candideranno agli Oscar, comunque insomma vedremo un attimo. e tiene un'attenzione costante nonostante la durata, insomma, abbastanza impegnativa. Considerevole, certo. Esattamente, quindi direi che è più che consigliata come scelta quella di vedere il film di Spielberg. E poi c'ha quel côté, diciamo, appunto spionistico, che certo, se anche non lo leggi appunto come un film globale, politico, eccetera, però si fa vedere anche sotto quell'aspetto della tensione, della capacità di costruire il Checkpoint Charlie, e poi anche a tutti quelli che hanno proprio la storia, vedere cos'è stato quel momento di passaggio terribile della Berlino dal pre al post muro, proprio in quei 2-3 anni, è una notevole esperienza. Devo dire che hai fatto bene a dire del cast di Tom Hanks, dico anche Mark Rylance, che fa il ruolo appunto della spia russa, che è un attore britannico shakespeariano straordinario. Regista, ecco, è più regista che attore, comunque è uno che viene da tutt'altra parte, invece fa una parte splendidamente. Assolutamente. Quindi. No, grande livello in questo Ponte delle Spie di Steven Spielberg. Rimaniamo al tema, rimaniamo al genere un po' più drama che action, con il ritorno in sala proprio in questo weekend, tra l'altro, e quindi è una novità al cinema, di Richard Gere, che sempre di più in questa fase della sua carriera, Valerio, sta cercando un pochino una strada attoriale che lo sposti da quello che è stato il suo percorso fino a questo momento. Prova a farlo con Franny. Perché è così ricco? Non lo so, è un filantropo. Credo che ti abbia trovato un lavoro. È capace di tanto. Quell'uomo può fare tutto. Sei tu il dottor Luke. Molto piacere. Sono felice che tu sia tornata. Benvenuti a casa. Penso che ci nasconda qualcosa. Ne ha passate tante. Vattene via! Non doveva andare così. Se tu fossi rimasta sarebbe stato diverso. Mi dispiace di essere andata via allora. Dobbiamo lasciarci il passato alle spalle. E allora, Franny, Richard Gere, questo lo raccontiamo un po' più nel dettaglio, perché appunto è una novità, è la storia di un miliardario filantropo. Sì, che possiede una clinica. Esatto, proprietario di una clinica, ma in America evidentemente basta. Appunto, poi io mi sono anche un po' meravigliato. Può neanche bloccarlo. Per la carità, fa quello che vuole. Tra l'altro vive un po' in disgrazia e dimesso da quando 5 anni prima, e siamo nel prologo del film, quindi non vi spoileriamo niente, un incidente di cui lui si sente colpevole, gli porta via il miglior amico e la miglior amica. Lascia soprattutto orfana una ragazza giovane, che ritroviamo appunto 5 anni dopo, e che Franny, il soprannome di questo personaggio interpretato da Richard Gere, tenta di aiutare. Come? Facendo sì che di lei fidanzato diventi, che è un dottorino giovane, diventi un mamma santissima. Esatto, abbiamo un posto persino nel consiglio di amministrazione. Esatto, assolutamente. Insomma, un nepotismo trasversale, potremmo chiamarlo. Benefico, ma lo fa per questa ragazza che lui ha sempre considerato la figlia che non ha, se vogliamo, no? Però nel frattempo lui vive di grandi patologie, vive da disturbato, vive di morfina, assolutamente di dipendenza. Insomma, questo incubo di questa responsabilità non se l'è scacciato. Quanto c'è dentro della cultura del senso di colpa calvinista, e anche un po' di questo senso ascetico buddista del nostro Richard, che comunque devo dire, ricordo che la ragazza, la figlia, è interpretata da Dakota Fanning, in questo film prova quantomeno, Valerio, abbiamo avuto anche la fortuna di vederlo in lingua originale, quindi meglio, di sentir recitare assolutamente Richard Gere, prova una strada di recitazione più sfaccettata di quella di un attore che oggettivamente non è che si sia sempre dannato l'anima per sembrare polidimensionale. No, ha seguito un po' l'onda di quando era un sex symbol, che si è mantenuto comunque a 66 anni, ci sono delle scene di mezzo nudo che vanno ancora abbastanza bene, però come i grandi attori, effettivamente, quando passi una certa età, diciamo dopo i 50, cominci a guardarti intorno e a fare delle scelte che ti possono consentire di affrontare dei personaggi molto più variegati di quelli che hai fatto fino a quel momento lì, e questo film secondo me è tenuto su quasi totalmente da lui. Cioè, non che gli altri lo recitino male, anche Dakota Fanning, però la sua performance è talmente un continuo passaggio da uno stato di positività a uno di follia, sostanzialmente. Lui aveva un difetto, faceva spesso una specie di smorfietta guardando sulla sinistra con l'occhio chiuso, fa una sola volta in questo film e per gigioneggia il resto, poco, molto poco. Beh, insomma, allora dai, Franny si può vedere per chi appunto ama il racconto, il film comunque che ti sensibilizza molto, sì, ti ti tocca, commovente, eccetera. Ecco, per chi ama quella roba lì, è un film a basso budget, girato in un mese, 7 sì. milioni di dollari di budget, che in America sono pochissimi. È un'opera prima, perché Andrew Renzi viene dai documentari e questo è il esattamente, quindi insomma, bravo anche in questo Richard Gere a far lavorare molti giovani, a farli esordire, a mettere la sua popolarità a servizio di questi film. E allora, lì nella regia, sentiamo come vanno le cose sulle strade del Natale, fra poco torniamo insieme e parliamo di Guerre Stellari. La Rosa Purpurea. Seconda parte della Rosa Purpurea, speciale Natale. E cosa andiamo a vedere al cinema? Sicuramente il dominatore di questo periodo è Guerre Stellari, episodio 7. La forza scorre nella mia famiglia. In me. In mia sorella anche. E quei poteri li hai anche tu. Giube, siamo a casa. Eh beh, insomma, qui siamo di fronte, siamo di fronte a una cosa che ci fa dire, come accade ogni tanto nella storia del cinema, c'è un prima e c'è un dopo, no? Adesso c'è il dopo. Adesso siamo proprio al dopo. Adesso siamo nel mentre, esatto. Forse. Perché sì. Guerre Stellari, episodio 7, attesissimo, ma è proprio poco attesissimo. No, episodio nuovo, episodio della saga di Guerre Stellari, da quando Disney e Lucas si sono sposati. Credo che sia merito di questo matrimonio, esatto. Perché la vedevo un po' in sospeso. Se no era già finito tutto, sì, era finito. Sì. Da tempo, sì, sì, sì, sì. E invece si sono rimessi in moto gli appassionati, si è rimessa in moto la passione, si è rimessa in moto la storia, perché siamo nel dopo 30 anni dopo il ritorno dello Jedi, esatto. Quindi siamo lì. E lì si rincontriamo vecchi e nuovi amici di questa incredibile saga quasi filosofica sotto un certo profilo, come Harrison Ford, Carrie Fisher, è un cast altisonante. Ora, abbiamo parlato di questo film la settimana scorsa, però l'ondata di incassi che sta portando a casa, tra l'altro è uscito due giorni prima in Italia che rispetto agli Stati Uniti, l'ondata di incassi che sta portando a casa ne ha fatto un po' il monopolizzatore di questo periodo. D'altra parte era ovvio, cioè non poteva... Ovviamente. Ecco, allora ti chiedo, in questo Natale si deve cadere nella rete della forza o se ne può sfuggire? Io direi di sì, perché comunque gli appassionati stanno cercando da tempo di chiudere questa storia che prima è partita a metà, poi è andata indietro, adesso ritorna dopo, sono rimasti magari un po' con la voglia di vedere il finale, ma anche gli altri, cioè è uno di quei film a cui uno non può rinunciare, insomma, credo che basta la parola, come diceva una pubblicità di tanti anni fa, cioè basta il titolo e quindi non soltanto poi, c'è anche J.J. Abrams come regista, che certo, comunque assolutamente. Si è fatto venire molte malattie, credo, per fare questo film. E non deve essere una materia facile da gestire, peso, con quei producer alle spalle anche, insomma. Ma effettivamente è un film di grande responsabilità, perché porta il regista e gli autori a doversi confrontare con un passato che definire ingombrante poco, con il fuoco di fila dei fans che non vedono l'ora di impallinarti per dire che non sei stato coerente, e cioè questa cosa della coerenza bisogna un po' anche trasgredirla. Si scatenano molto sempre, io mi ricordo degli Anelli che gli scrivevano con i Guerre Stellari, sì. Episodio 1, 2 e 3 fu forse anche per demerito del secondo e del terzo dei film, soprattutto fu una specie di ecatombe. Bisogna che un po' però staccarsi da questa cosa. Questo è un film fatto per ricordare al pubblico di oggi, soprattutto anche di molti ragazzini di oggi che hanno sentito parlare di Guerre Stellari dai genitori, che sono quelli della nostra generazione, insomma, che si sono nerdizzati con Guerre Stellari, comprano i fumetti, comprano i pupazzetti, eccetera eccetera, hanno trasmesso questa passione ai più piccoli, e oggi c'è un pubblico che va dai 5 ai 20 anni che quel mondo lì non l'ha mai incontrato e finalmente lo incontra. È evidente che lo deve incontrare col linguaggio di oggi, con la cinematografia di oggi, e quindi valutiamolo con il regista giusto oggi, tra l'altro, per oggi, e quindi incrociamolo così, valutiamolo così, e poi vedremo che posto prenderà nella storia della saga e del cinema, lo stabiliremo dopo. Tra l'altro tu sei dell'idea, Valerio, che si debba vedere la saga in fila cronologica o in fila di uscita di film? Ma io avrei preferito la cronologica, sinceramente, però sono partiti dal centro, quindi adesso magari... Però se te li rivedi a casa cosa fai? Parti da episode 1? Sì. Ecco, cioè, questa, anche qui sai che c'è dialettica. Sì, lo so. Molti lo so. Dicono vedere prima i 3 episodi centrali, certo, come sono usciti al cinema e poi rifarsi, però cioè, voglio dire, anche lì non è semplicissimo. Io preferisco fare un cronologico, poi per carità, forse qualcuno che non ricorda bene è meglio che si vada a vedere l'episodio numero 3. Perché, in questo caso, certo. Sì, cioè il 3, perdono, il 6. Il ritorno dello Jedi, che è quello esattamente precedente, esatto, a questo. Forse oggi il consiglio che possiamo dare è: guardatevi Guerre Stellari, L'Impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi. Sì, e poi andate al cinema questo, a vedere. Questo perché serve, è la per cosa che qua serve di più. Il resto si può vedere anche in un secondo tempo. Insomma, avete capito che Guerre Stellari domina al di là di tutto, sta macinando incassi in questa fase. Allora, Valerio, abbiamo detto Star Wars, Frenny, Il Ponte delle Spie, ma ci sono già in sala da qualche settimana Heart of the Sea, sì, che è un notevole film sulla storia. Film notevole che però non ha convinto, non so perché, anche in America poco. Sì, però Ron Howard, ricordiamo, Ron il regista, Howard, grandissima, cioè, spettacolarità, estremamente... per raccontare la storia di come è nata la storia di Moby Dick, e con una balena bianca che fa davvero impressione. Sì, lì non si riesce neanche bene a capire poi quanto è l'effetto speciale. Poi... Ah, beh, no, ma è allo delle... stato dell'arte, a livello tecnico è veramente strepitoso. Sì. C'è Spectre 007 che è ancora in giro in qualche sala, è andato molto bene, e c'è Hunger Games, Mockingjay, che anche questo seconda e ultima parte di questa saga con Mockingjay, che continua nelle sale. I famosi 10 euro in mano dove li vai a spendere? Togliamo Star Wars perché quello se li dà da soli, 10 euro. Bravo. Presumibilmente Spielberg. Tu vai a vedere Spielberg. Sì. Io mi sa che vado a vedere Heart of the Sea, così, dovendo poteva io. Poteva essere seconda... Ecco. No, giusto per dare un'indicazione a chi ci ascolta, oggi si va al cinema, ecco, io vado sono a vedere un po' più quello tradizionale, mi va bene Spielberg. Allora, a questo punto noi passiamo a un'altra categoria, un altro gruppo di film, cioè i film d'autore, perché da qualche anno il Natale cinematografico è diventato terra di conquista del cinema d'autore. Sembra incredibile, poi è chiaro che gli incassi sono limitati, però di film ne escono tanti, perché molti finalmente distributori hanno capito che uno magari a Natale va, è vero che va al cinema, non è che ha proprio per forza voglia di andare lì a sbellicarsi alle risate o a vedere Spara, ma anche voglia stare lì sereno e guardare un film un po' più delicato con altri contenuti. Allora, qui io comincerei a sentire innanzitutto la nostra musica introduttiva. Stavolta abbiamo scelto quella che è forse il Natale d'autore animato e di commedia più bello degli ultimi 20 anni, ovvero Nightmare Before Christmas. Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? This is Halloween, cantava così la canzone principale del musical animato di Tim Burton. Allora, le ricette della signora Toku. Perfect Day, quel fantastico peggior anno della mia vita. Francofonia, e qui siamo quasi nell'esoterico, diciamo, in un certo senso. Ma anche, e direi su tutti, e l'abbiamo spostato qui perché è veramente cinema d'autore in questo caso, Irrational Man di Woody Allen. Pare che Abe Lucas venga a insegnare qui quest'estate. Esiste una differenza tra un mondo teorico di stronzate filosofiche e la vita vera. È affascinante perché è un uomo geniale, ma soffre. È così maledettamente interessante e diverso. Ok, quindi di che cosa stiamo parlando? Moralità? Scelta? Estetica? La casualità della vita? Woody Allen torna con questo Irrational Man, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, un film di un Woody Allen, Valerio, che sembra girare attorno, forse saranno i suoi 80 anni, sembra girare attorno a un tema che è quello del senso della vita, che evidentemente lui ha 80 anni. Ha sempre cercato il senso della vita, esatto, già da prima, adesso non si sta evidentemente ancora molto afferrato, ma non è semplice, no, diciamo che è un compitino non da ridere, e però lui cosa lo esorcizza facendo film. film, esorcizza raccontandolo questa ricerca continua ossessiva, no? di un senso alle cose, e stavolta lo fa raccontando di questo professore piacione di filosofia un po' sbandato. Sì, molto, molto direi quasi così, rinunciatario. Esatto, anche questo Joaquin Phoenix che arriva in questa università, le sue lezioni di filosofia sono straordinarie, ma lui dentro se stesso sente che se non sono applicate alla realtà sono appunto bullshit, come esatto, diceva nel trailer. Allora, chiaramente cosa fa? Allora si applica. Si applica in maniera... e dice, ma facciamo che la teoria diventi realtà. Si applica alla Hitchcock. No, se, vabbè, come dice Sartre, l'inferno sono gli altri, allora se gli altri ci fanno diventare inferno la nostra vita, eliminiamoli. C'è ancora anche qui un altro tema, l'omicidio. Cioè l'omicidio da come? Manhattan Murder Mystery a Match Point, cioè, sì, è un altro tema veramente ricorrente. Che Woody Allen è secondo te questo? Beh, questa è quella del cotè più serio comunque, in cui la commedia emerge solo da qualche battuta sull'università. Si ride poco, si sorride molto ma si ride poco. Sì, tant'è vero che secondo me il pubblico in alcuni casi è spiazzato, io ho sentito della gente ridere nei momenti sbagliati comunque. Perché voleva ridere. Sì, esatto. Ma sicuramente gioca anche con la letteratura come sempre, perché l'inserimento del delitto e castigo, che poi praticamente è questo come il tema del film, e poi questa sublimazione dell'omicidio come forma di ritorno, rigenerazione alla vita, che poi non so neanche se poi alla fine lui la consideri esattamente così, per come poi va a finire la cosa. E quindi è interessante vedere come cambia molto anche Allen. Qualcuno magari lo trova appunto in via di così, senescenza. Io credo che siano invece dei momenti di riflessione che ci fanno tutti, e che comunque un grande autore come è stato lui si può fare senza bisogno di far ridere. Lo trovo sicuramente della parte più recente del cinema di Allen. Lo trovo un film che è meglio dal mio punto di vista, per esempio, di Magic in Moonlight, che trovai molto verboso, molto parlato. Quei film che puoi dire c'è quella battutina carina, esatto, però finisce lì. E lo trovo un film come dire, sicuramente, come dicevi tu giustamente, sul cotè più serio, per esempio, di Midnight in Paris. Cioè qui siamo su un ragionamento, è un film ottimamente scritto, ottimamente interpretato, Joaquin Phoenix, grande prova d'attore, però anche Emma Stone, che è un po' la neomusa, diciamo. Sì, se le passo, ogni adesso ho finito con Scarlett Johansson. Ecco, è passato Emma Stone. Secondo me piace a chi ama il Woody Allen più classico, più tradizionale, ma anche a chi vuole, diciamo, qualcosa che stia più, appunto, ecco perché l'abbiamo messo molto nel settore d'autore, perché sicuramente è un film di una certa pregnanza, sì. Poi comunque ricordo anche Chiamatemi Francesco, che è nelle sale e sta andando molto bene, e secondo me meritatamente, perché Daniele Rocchetti ha fatto un film, ha evitato di cadere nel calligrafico, come si diceva, ci ha messo del suo anche a livello cinematografico, ed è riuscito a uscire dalla prigionia di fare un film televisivo. Assolutamente, il rischio era quello, di fare una geografia di un papa vivente, e invece ci dice molto. Tutto lo spazio che ha dedicato, per esempio, al periodo della dittatura argentina è uno spazio importante nel film, nell'equilibrio del film e della formazione di questo personaggio. Allora, blocco dedicato al cinema d'autore, Le ricette della signora Toku, Perfect Day, che a me è piaciuto molto, no, è molto buono anche questo, quel fantastico peggiorano della mia vita, che è un adolescenziale intelligente, Sundance, e anche molto ironico, pur affrontando anche qua il tema di una morte prematura, insomma, di una morte giovane. Francofonia di Sokurov, se proprio gli appassionati che Natale avete passato, arte, l'importanza dell'arte nel mondo, che salverà il mondo, ma se noi non la salviamo l'arte, non ci salviamo neanche noi. Questo è un po' il tema. Insomma, i 10 euro dove li metti qui? Finisco sempre su Woody Allen, se no a me la signora Toku, nonostante sia un film che certe cose non è perfettamente riuscito, però la tematica mi ha molto toccato. In questo caso è una cosa personale, certo. Ma comunque sceglierei prima Woody Allen. Quindi Woody Allen o la signora Toku, io ci aggiungo Perfect Day, che è una forma di analisi su quella Bosnia del 95, e ormai ci siamo anche lì un po' dimenticati ed è una prova d'attore straordinaria su tutti i T. Robbins, ma anche Benicio del Toro trovo che insieme funzionino perfettamente, fanno una coppia proprio con quell'ironia dell'uno e lo stupore, anche la partecipazione dell'altro, molto intensa. Ci sono venature da Kusturica quasi in certi momenti, nonostante sia un film assolutamente occidentale approccio, però qualcosa è rimasto dentro quella terra, nell'ambiente, evidentemente, esatto. Che porta Perfect Day a essere un film in cui si può investire. E allora, lì nella regia, fra poco torniamo insieme e affrontiamo il terzo blocco, ovvero le commedie, che sono sostanzialmente i film comici natalizi italiani. La Rosa Purpurea. Sonora di Gremlins, siamo andati un po' indietro nel passato. Gio Dante si divertiva, no? Con queste, molto, queste scelte, sì, musicali che contrastavano con il resto, poi con il resto film. Dei film, assolutamente. Che maestro Gio Dante, ragazzi, che film straordinari ci ha regalato. Con Valerio Guslandi, La Rosa Purpurea, speciale Natale barra Santo Stefano. Poi sentiteci quando volete. Ci state sentendo adesso, feste, esatto. Prime feste, poi prime, ci sarà una puntata speciale anche a Capodanno, perché anche lì vi racconteremo, anzi ve lo dico già adesso, a Capodanno vi racconteremo, come sempre il sabato alle 18, e poi avremo un altro passaggio appunto anticipato della sera di Capodanno. Vi racconteremo tutto il cinema da vedere nel 2016, quindi tutto quello che accadrà al cinema, i film attesi, quegli autori che tornano, eccetera eccetera, in un anno, mamma mia, ecco, e dal primo gennaio al, diciamo, a luglio, insomma, quando poi si va verso l'estate. Quindi puntata imperdibile, sempre con Valerio Guslandi che è qui con noi. Valerio, dicevamo, commedie da qualche anno, stranamente, significa solamente film natalizi italiani, perché la commedia americana, la commedia, magari la grande commedia francese un po' sofisticata e tutto, hanno scelto altri periodi. Sì. È colpa forse anche qui dell'effetto Guerre Stellari? Beh, quest'anno credo di sì, perché tanto prevedendo la sua uscita si sono scappati tutti, credo. Quindi gli italiani, siccome invece hanno solo questo momento per spararle, a parte Boldi che fa un po' prima, o Zalone che fa a cavallo, o Verdone il giorno che fa di Capodanno dopo. E Verdone addirittura dopo, ma Verdone si è sempre un po' tirato sempre fuori dalla mischia dagli ultimi, almeno negli ultimi anni, sempre, sì, sì, assolutamente. Fine gennaio, febbraio, però sì, era meglio lasciar perdere, quindi a porte aperte alla commedia italiana, che invece il suo pubblico ce l'ha e non, sì, teme Guerre Stellari, no, questo no, sembra no, essere ragionamento. Ha provato ad anticipare i tempi intelligentemente Leonardo Pieraccioni con il professor Cenerentolo. Messa Ciuccoli, su da me in ufficio immediatamente. Smetti di scherzare, ma vedi dove siamo? Dove siamo, ragazzi? Io sono a fine pena, Lavora fuori, col percorso obbligato. E con i detenuti io faccio un percorso. Ma con questa gente non ne vale la pena. Ma che è mezzanotte? È mezzanotte? No, Cerco io, tanto l'isola è piccina, o sei a nord o sei a sud, o di chi o di ha. Vieni via subito. Vengo subito. No, aspetta Timoteo, aspetta. Se non trovano valida giustificazione stavolta, sono qua i grossi! Dove la trovo io ora? E allora, il professor Cenerentolo, ne abbiamo parlato un paio di settimane fa qui alla Rosa Purpurea con Boris Sollazzo, è forse il titolo, diciamo, non so se siete il finirlo di punta, ma quello in cui si può cercare qualcosa di diverso che vada fuori dal cinepanettone, per intenderci. Beh, no? Non ha la struttura del cinepanettone. Assolutamente, non... lui Pieraccioni ha provato a trovare strade un po' diverse, forse in questo film, anche se parte comunque dai soliti ingredienti, sì, che sono il burro, l'uvetta, eccetera, eccetera, sì, per il panettone. Qui sono e una c'è bella Chierini ragazza che se lo mette dentro così, esatto, una bella ragazza, qualche hit da radio commerciale, certo, poi ha scritto lui le canzoni qua, sì sì, no, però parlo di sì, questo, sì, clima, diciamo, questo contorno, clima generale, e una sorta di eterno Peter Pan che cerca in una donna più giovane una rivitalizzazione, diciamo così. Sì, quello del Peter Pan è una cosa che penso sia lungo tutta la sua carriera, anche se cerca, ripeto, lo dico perché è importante ed è corretto nei confronti di Pieraccioni, cerca in certi momenti di guardare un po' di più ai maestri della commedia, magari, però forse perdendo un po' in vis comica. Sì, questo è un film che è brillante, ma non è non si ride tanto, cioè si sorride, è gradevole, cioè quella cosa. Lui vuole stare sulla commedia italiana classica, vedi Monicelli, questi qua. Credo che debba studiarsela ancora un pochino di più a fondo, perché quelli facevano ridere ma facevano pensare, e qui invece è rimasto un po' a metà. Comunque, per carità, onore a chi prova delle cose nuove. E tra l'altro, no, il pubblico almeno all'inizio lo ha premiato abbastanza, sì, insomma, perché poi sai, sono quei nomi che la gente aspetta, no? Il ritorno, sì, di Pieraccioni, il ritorno di Verdone, ritorno, cioè, che poi hanno lo stesso livello, esatto, tutti. Sono momenti che comunque, sì, se il loro lo portano a casa, come farà probabilmente Checco Zalone, che però ha aspettative di incasso ben più alte, viene dai 50 milioni dell'ultimo film, non sarà semplice ripetersi, però è uno da cui ci si aspetta quello, un po' sì, quello che salva un po' la stagione in certi poi momenti. Negli anni scorsi lui ha proprio salvato il cinema, perché poi ha fatto ripartire tutta la filiera economica che ci sta dietro. Certo, comunque. Assolutamente. E allora il professor Cenerentolo, tra l'altro una parola anche su Laura Chiatti, che ho trovato a suo agio in questo ruolo di commedia. Ma lei, già Verdone l'aveva un po'. Secondo me Verdone è un grandissimo direttore di attori, quindi però forse qui si caratterizza un po' qua di più. Di più, sì, qui sicuramente di più, però insomma tiene testa bene a Pieraccioni. Cioè, potrebbe essere una bella vena della sua carriera. Penso questa, di sì. Se si facesse molto di più quella commedia per un'attrice esatto, forse perché potrebbe commedia femminile in Italia stiamo pochissimo, proprio male ma esatto, quindi allora questo è il professor Cenerentolo, ma per stare in uno spirito un po' più tipicamente come dire natalizio cinepanettonico, se vogliamo, Vacanze ai Caraibi, il film di Natale di Neri Parenti. Che c'è? Le carte di credito non funzionano? Dovremmo informarti, banca. Certamente. Non funziona, te credo, che ne sai te. A noi il debito greco ci fa una pipa. C'ho gli ormoni che mi saggio trovo come trote. Ecco i miei genitori. Mi sono fidanzato con una italiana. Ciao mamma. Figlia di due, ma ricchissimi. Sfondati. Sfondati siamo sfondati, questo è vero. Dobbiamo trovare un modo per farle lasciare. Ci penso io. Papà, mi conosci? Sono un po' pudica. Ma che te frega? Ma dai a sempre! Dai a senza limiti, dai a come il pane, dai a come il boomerang, dai a ritorna chiari, dai! E la filosofia del film è abbastanza chiara, l'abbiamo sentita enunciata subito, da Christian De Sica, con lui Massimo Ghini, la solita compagnia, anche con begli inserimenti, Angela Finocchiaro, Luca Argentero. E una, secondo me, sorprendente Ilaria Spada, che è forse la vera rivelazione di questo film. Ilaria Spada la si è vista un po' in tanti film ultimamente, in secondo piano, e dava qualche idea che poteva fare di più, qui fa di più. Qui assolutamente lei fa di più, questo è cinepanettone proprio con la confezione, assolutamente. Non c'è neanche proprio l'uvetta esatta, così, tre episodi, Neri Parenti. Tradizionale IGP proprio. Ah, esatto. Neri Parenti, il viaggio ancora una volta, stavolta ai Caraibi, tra l'altro pare che l'abbiano girato in un periodo in cui faceva abbastanza freddo. Freddino, cioè sì. Insomma, freddo per come quanto succede, può fare freddo ai Caraibi. Sono stati puniti. Per cui così, però ecco, c'è da dire questo, Valerio, evidentemente sembrava negli ultimi 2-3 anni che il cinepanettone fosse, non dico morto, ma non stesse molto bene. No. E comunque si era allontanato dal core, diciamo, proprio della stagione natalizia. Adesso si sta riavvicinando. Forse, dobbiamo anche ammetterlo, c'è la richiesta del pubblico. Beh, questo può sempre. Noi possiamo dire quello che ci pare, come dico sempre. Poi tanto è il pubblico che va lì e paga e li premia. Fino adesso sta recuperando, in effetti, sul favore del pubblico, quindi potrà piacere meno a me o a te, ma noi prendiamo atto. Ma almeno sai cos'è? Io penso che sia sempre importante in un film giudicarlo con onestà, cioè partire con che cos'è quel film, a cosa serve e a chi si rivolge. No, e allora, vuole, questa cosa qui, dentro questo percorso, è inutile stare a dire, non è che dobbiamo confrontarlo con Walter Hill. Fa il suo dovere. Ma fa il suo, c'è il suo pubblico, uno va a vederlo o meno, tanto la gente va a vederlo lo stesso, e quindi, ma durante questo Natale, un altro film molto natalizio, sin dal titolo, cerca di scalfire questa supremazia cinepanettonica. Si intitola Natale col boss. Dovete cambiare i connotati a una persona molto, ma molto importante. Detta così sembrerebbe qualcosa di illegale. Benvenuti, eccoli qua i miei machi del bisturi. Io direi di incidere qui. Ah, ma il paziente è sveglio. No, so io, mi hai preso la mano. Ah, scusa. È identico. Sono tale e quale a Leonardo. Leonardo? DiCaprio, Leonardo DiCaprio. DiCaprio? Con la O. Ma che cazzo avete combinato? Oh! E tu con questi che ci fai? Qui dentro, se non ci facciamo rispettare, è finita. Noi dobbiamo assumere l'espressione da duri. Non mi piace che la gente mi guardino. C'è in te. Natale col boss è una sorta di resto del mondo, diciamo così, del resto della commedia nuova italiana. Esatto, sono entrati l'anno scorso, Lillo e Greg. Esatto. Francesco Mandelli, semi-orfano, diciamo, del suo... Ruffini. E appunto si sono messi tutti un po' insieme per fare, se vogliamo, l'anti-cinepanettone il secondo cinepanettone. Sì, direi tutte e due. Un po' tutte e due. Il regista lo stesso, perché... Volviangolo Fango di Biasi, che era quello di Natale letto stupefacente, esatto. Quindi prima stupefacente, adesso col boss. Anche loro continuano con, vedi, sono titoli che metti Natale, poi ci metti qualche altra cosa. Gli altri vanno all'estero, loro fanno delle varianti. Esatto, fanno delle varianti, ma con quale risultato secondo te? Ma loro sono comunque, l'anno scorso non era stato male Natale stupefacente, c'erano stati dei momenti brillanti e aveva divertito e rappresenta un'alternativa. Sicuramente qua poi col fatto di questo boss che diventa un personaggio noto della musica italiana, hanno avuto questa idea ed è sicuramente un'idea più vincente di tante altre. Credo che forse l'anno prossimo ce ne troveremo tre di film italiani. Eh beh, qui se, ci sarà una proliferale di cinepanettoni, esatto. Perché di Natali da qualche parte o con qualcuno, perché effettivamente... Ci daranno anche il Pandoro già invece che alla fine dell'anno, cioè ci daranno tutto l'anno prossimo. E comunque, io lo dico sempre, quel che serve a portare una persona in più al cinema va fatto, perché qui il tema è di sopravvivenza, cioè è di dire alle persone che esiste questa forma di intrattenimento, e se poi ti sei divertito e la prossima volta vai a vederne un altro, il tuo mestiere l'hai fatto. Poi lo spazio per vedere il cinema, quello che ci piace, sì, quello di grande spessore o basta di grande impatto, che ci rimangano le sale, ecco, che beh, però le sale stanno su se fanno questi incassi qua, sì, quindi benvengano tanti cinema panettoni se non si mangiano il pubblico uno con l'altro, perché sennò diventa inutile. Solita domanda di chiusura, mm-hmm. Blocco, allora lo dico già in questa puntata, poi sviscereremo la prossima. Il primo gennaio arriva Quo Vado, che è l'azzeccatissimo titolo del nuovo film di Checco Zalone. L'abbiamo detto prima, Checco Zalone, 50 milioni col suo ultimo film, 47 se non erro con quello precedente, insomma... Promette molto bene. Ecco, e tra l'altro si è staccato un pochino, adesso si sa ancora poco, però si è staccato un pochino da quello che era forse non tanto il cliché quanto l'andamento di scrittura dei film precedenti. Qui già sulle catinelle cominciava ad essere. Cominciava un po' a essere da qualche altra parte, aveva comunque una spina dorsale diversa. Cosa ti aspetti da questo Checco Zalone? Ne parleremo, ripeto, di più nella prossima puntata. Cosa si aspetta il cinema italiano e cosa può aspettarsi il pubblico, cioè rivedere i meccanismi comici che lo hanno reso popolare o magari un qualche rischio da qualche parte in più? Ma credo che qualche rischio se lo prenda, sicuramente ti aspetti la battuta quella sua, anche un po' più volgarotta, ma comunque già dal film precedente aveva molto smorzato, e in questo anche Nunziante, che è il regista di tutti i suoi film, ci mette la mano. Credo che faccia qualcosa di più, poi qui ha voluto toccare questa specie di, anche qui, mezzo Peter Pan, perché comunque è uno che sta a casa con i genitori, non si vuole mai impegnare nel matrimonio, non si vuole, ha il lavoro fisso e poi tutto d'un tratto gli crolla tutto e lì ci saranno i motivi di comicità. La gente si aspetta tanto e credo che sarà soddisfatta. Oso dire che sarà soddisfatta, ma penso di sì. Ecco, allora, la fatidica domanda questa volta. I tuoi 10 euro, Valerio Guslandi, avendo di fronte il professor Cenerentolo, Natale ai Caraibi, Natale col boss, li spendi per uno di questi tre film o li risparmi perché con Zalone? Io li risparmi per Zalone. Forse si capisce cosa mi interessa. Te li tieni lì in tasca il primo gennaio, sì, o sì, anche il 2 o anche il 3, sì, insomma, perché lì il primo gennaio immagino che ci il sarà. Il gennaio sarà impossibile entrare. La bolgia, praticamente, sì, per entrarci. There's magic in the air this evening, magic in the air. The world is at her best, you know, when people love and care. E per la parte finale della nostra rosa purpura di Natale, che è quella che guarda, scruta un po' l'orizzonte dei film per la famiglia, dall'animazione, comunque da film da vedere insieme ai figli, eccetera, eccetera, ci siamo fatti accompagnare da Kermit the Frog, da Kermit la rana. Ci sembra il cantante migliore per questa cosa, in questa canzone Till Christmas, che arriva da Festa in casa a Muppet, anche perché, insomma, non so tu Valerio, ma io i Muppet li ho adorati, sì, da sempre. Sempre. Che bella infanzia abbiamo vissuto con i Muppet in televisione, anche in Italia, e dopo a un certo punto si faceva fatica un po' a trovarli. Allora entriamo nel clima appunto family. Se i vostri euro a disposizione non sono più solo 10, ma sono 10 per 2, 3, 4 a seconda quello che è, allora cosa andare a vedere? E cominciamo con due uscite animazione che sono proprio di questa settimana, quindi sono novità. Da una parte Masha e Orso, Amici per sempre, che è l'edizione, diciamo, cinematografica di un cartone animato che sta spopolando sulle reti televisive del digitale terrestre. Io lo ritengo un capolavoro assoluto, non tanto il film in sé, no, ma il clima che permea la storia dell'amicizia di questa bambina. Sì, sempre queste storie di formazione. Che è una pipì calzelunghe, sì, diciamo così, russa. Con l'orso. E questo orso di una bontà totale che però sopporta con grande, con grande pazienza tutte le malefatte o tutte le marachelle, ma con un affetto fra i due simbiotico addirittura. Ci sono momenti addirittura molto commoventi dentro queste storie. Sì, c'è molta tenerezza. C'è molta Russia anche. C'è molta Russia, certo. È davvero un cartone animato che io penso sia una delle cose migliori che ha fatto vedere l'animazione televisiva degli ultimi anni. E adesso arriva al cinema. Chiaramente ci arriva, non è che aspettatevi cose particolarmente diverse. Diverso, diciamo. No, un po' più lungo il formato, è chiaro che è un'operazione soprattutto commerciale per portare, però ecco, si sta certi che anche il bambino piccolo, il 2, il 3 anni, il 4 anni, il 5 anni, davanti a questa cosa è permeato di sentimenti positivi, non sdolcinati, molto no, curati. Non c'è il miele, insomma. Cioè, sotto un certo profilo, Valero, la sincerità. Penso che ci sia anche qui una sorta di anti-Disney, non perché si debba sempre contrapporre poi non a Natale, però che c'è un'idea forte, una scuola forte alle spalle di questo, che è quella appunto russa da una parte, francese dall'altra, che hanno messo insieme le forze per mostrare che un altro mondo è possibile anche nell'animazione. Insomma. Anche nell'animazione, certo, no, beh, non poteva esserci un monopolio. E soprattutto si può fare anche grandissimo successo planetario anche raccontando storie nella maniera di Masha e Orso, che ha degli stilemi totalmente diversi. E diciamo, senza neanche magari degli effetti o delle cose particolari. Per esempio, assolutamente, bidimensionale, assolutamente, come vecchia maniera. Sì, insomma, sì, no? I sentimenti non sono in 3D, in no, genere, sono così. Oppure lo sono, ma per merito nostro, esatto, non per merito degli occhialini. Sì, allora, Masha e Orso, Amici per sempre, Alvin Superstar, che ritornano con questi scoiattolini, topolini, cioè, quale ripresa. Esatto, dopo il grande successo degli episodi precedenti. Allora, ascoltiamo la clip. Alvin? Alvin? Inizio un nuovo capitolo della mia vita. Lei verrà con me a Miami. Andiamo a Miami! Theodore, prendi i costumi! Niente costumi, io vado a Miami. Nuovo lavoro, nuova casa, nuova famiglia. Non voglio tornare nella foresta. Io non intendo ritrovarmi imparentato con quello lì. Dobbiamo andare a Miami, non deve chiederle di sposarlo. Io ho un piano. Le quattro parole che non vorresti mai sentire. E allora, l'avete sentita con la vocina dei tre scoiattoli, Alvin, Simon e Theodore, che cominciano a intraprendere, insomma, un viaggio. Pensano che Dave sia partito per New York e non vogliono che si sposi. Esatto, e allora devono fermarlo. Un po' come Benigni, quando doveva fermare Colombo, perché sennò sì, la sua gabriellina si sposava con l'americano. Insomma, questo film d'animazione è sicuramente una cosa molto americana. Lo è stato anche nell'altro episodio, però devo dire che ha attecchito abbastanza bene anche da noi, tutto sì, sommato. Sì, ne ho sempre sentito parlare molto bene anche da noi, quindi comunque ha il suo... alla sua fetta di pubblico affezionato. E allora, Alvin Superstar, Masha e Orso, poi qualche film che c'era da qualche giorno, come Belle e Sébastien, che è stato, questo invece è un Belle film... Belle e Sébastien ha avuto un notevole successo. Assolutamente, ma anche un film, tra l'altro, ricordiamoli che i temi di Belle e Sébastien, che è stato un cartone animato di quando noi eravamo già grandicelli, insomma, che ha fatto crescere anche generazioni in Italia, sono temi pregnanti, sono temi forti, c'è lo sfondo della guerra, dell'occupazione nazista, cioè... No, sono i bambini, sono messi di fronte, insomma, alla realtà, o comunque delle cose non tanto belle, edulcorate. Quindi secondo me qui siamo già su un target di bambini 8, 9, 10 e più. Penso che un bambino piccolo rimanga troppo piccolo, secondo me c'è qualche momento di stridore, sì. Però il film sta andando molto bene in Italia, anche questo nuovo capitolo. E cito anche Il viaggio di Arlo, perché la Disney da qualche anno ha cambiato strategia, col suo film natalizio esce molto prima, quello l'asso nella manica, e dopo mette il resto. Esatto, questo è il resto. Questo è Il resto, che per essere Il resto è un resto dignitosissimo. Assolutamente, un film molto semplice, molto lineare, questa famiglia di dinosauri. Ancora una volta si torna su chi ricerca un padre che non c'è più, su chi cerca una figura che gli è mancata, eccetera eccetera. Se si accetta con la sospensione della credulità, diciamo, che un dinosauro possa arare col muso un campo di mais, tutto è possibile. Però anche fantasia, qui, scherzi a parte, tecnicamente incredibile. Ci sono immagini che non capisci se Pixar, National Geographic o Pixar. E poi il 1 gennaio, come abbiamo fatto con Checco Zalone, raccontiamo che arriva anche Il piccolo principe. E qui siamo di fronte un'altra favola senza tempo. Questa siamo comunque sempre più alta anche come assolutamente età, perché... Però Piccolo Principe ancora oggi ha, a parte che appunto ha un target di pubblico vastissimo, perché va dai sessantenni ai nipoti, ma soprattutto è riuscito con quel marchio, con quell'omino, con quell'aeroplanino eccetera, a perpetuare Santa Exupéry forse oltre ogni aspettativa. Sì, perché noi contiamo a ricordarlo sempre solo per questo come autore, però devo dire che a certe volte basta una cosa sola e poi rimani per tutta la vita, come vedi. Quindi ce lo troviamo sempre. Quindi Piccolo Principe la settimana prossima lo vaglieremo con più attenzione. Per chiudere, prima di passare ai film da vedere in casa e a risolvere il game della scorsa settimana, Valerio, i famosi 10 euro, che qui, come ben detto, si diventano di più. Ma io farei anche 20 più, terrei in parte, Belle Sebastian la terrei sicuramente, e anche Marsha, tanto per dare un'alternativa. Ecco, quindi per un po' più grandi, Belle Sebastian, un po' più piccoli, Marsha e Orson, Amici come per target. Sempre. Ecco, e allora queste sono le nostre scelte, i nostri consigli per il Natale al cinema. A questo punto, come dicevo, spostiamoci un attimo, prima di chiudere, al cinema da vedere in casa, ai consigli degli amici di Film TV, cominciando con il risolvere il gioco della scorsa settimana. Non ti ho tradito, dico sul serio. Ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il Tide, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia! E si trattava di Blues Brothers, la versione in Blu-ray dei 35 anni, era il nostro game della scorsa settimana, un film che definire epocale o mitico è davvero poco, ma che torna con questa edizione particolarmente lavorata, diciamo così. I vincitori verranno avvisati dalla nostra segreteria direttamente, ma noi ci facciamo raccontare invece tutti i contenuti, anche speciali, di questa nuova edizione di Blues Brothers in Blu-ray da Giulio San Giorgio di Film TV. Buon Natale anche a te, Giulio. Ciao Franco, buon Natale a tutti, anche agli ascoltatori, ovviamente. Sì, per queste feste abbiamo scelto un Blu-ray in missione per conto di Dio e del blues, Blues Brothers di John Landis, che è un autore che ci tengo proprio a sottolinearlo sempre, resta uno dei più importanti e sottovalutati del cinema americano, uno che veramente ha rivoltato l'immaginario di massa, ed è un film che festeggia 35 anni e rimane una delle pellicole più iconiche, con più influsso sul costume dei tempi e con una mitologia che non si è mai consulta. Il disco è veramente impeccabile, pienissimo di extra, tra cui spicca un making of e un commovente ricordo di John Belushi, e quello che rimane comunque sempre il crescendo di grazia spettacolare tra tantissima musica, pistole e risate. Tra l'altro, Giulio, dicevi giustamente, un film che rimane appunto assolutamente epocale per la capacità di influire sul costume. John Belushi è una sorta di anti-James Dean in questo senso, no? Cioè è l'antieroe che muore però giovane, e quanto ha dato probabilmente a questo film e a questo mito la tragica fine di John Belushi. Sì, assolutamente, poi rimane anche uno dei comici che si cerca sempre di imitare, ma non si riesce mai a raggiungere poi la sua prorompenza, la sua comicità assolutamente peculiare, strabordante, fisica, anche triviale nel senso di aggressiva, no? Contro lo spettatore. Certo, assolutamente. E allora Blues Brothers, 35esimo anniversario Blu-ray, era il nostro game della scorsa settimana, e invece andiamo a dare un'occhiata a quello che bolle, diciamo così, nel tubo catodico o nel pannello a LED dei vostri televisori per questi giorni, proprio per questi giorni. Abbiamo circoscritto a quel che accade il 26, il 25 mangiate, finite tardi, parenti, tombola, amici, cioè 26, a un certo punto uno guarda un film, e questo è un classico. E allora abbiamo voluto mettere insieme una sorta di una specie di trittico musical, che è un genere che molto si associa con il clima natalizio. Un americano a Parigi, su TV 2000, parlo del 26 dicembre, alle 21.05. Sette spose per sette fratelli, alle 21.30, qui c'è un'alternativa, e qualsiasi cosa abbiate visto in prima serata, alle 23.45 su Rete 4 c'è Victor Victoria. È un menù de roi, direi, no Giulio? Comincerei appunto con Un americano a Parigi, come dicevi, che è per me il capolavoro di Vincent Minnelli, con Gene Kelly ovviamente danzante e le immagini della MGM, di Hollywood, che sembrano uscite proprio da una mostra impressionista. Un musical rivoluzionario che era in grado di integrare perfettamente i numeri musicali alla trama del film ed elevare poi il realismo di fondo verso un livello un po' sospeso, in cui i sentimenti assumono la concretezza della realtà. Poi appunto Sette Spose per Sette Fratelli di Stanley Donen, che è veramente un grande classico delle feste, con un soggetto elementare assolutamente eccentrico, perché parliamo di fratelli boscaioli che organizzano un nuovo ratto delle Sabine e vengono poi rieducati in un musical western di grande genio popolare. E poi appunto dopo queste due alternative si chiude con Victor Victoria su Rete 4, 23:45, una ronde pre-parigina tra pregiudizi ed equivoci, con Julie Andrews meravigliosa in travestì e il graffio satirico di Blake Edwards che si misura con un disegno psicologico anche complesso e grandissimo senso del ritmo. A questi però aggiungerei una chicca alla mattina, che è il Mago di Oz su Rete 4 alle 8:35, che è una favola, una fiaba per i più piccoli, ma anche una fuga nel delirio per gli adulti. E bene hai fatto Giulio ad aggiungere anche quest'altra possibilità per un 26 dicembre, come si dice, molto musicale, con il cinema in TV. Grazie Giulio, grazie agli amici di Fil TV, ancora auguri a te e a tutta la redazione. Noi ci risentiamo la prossima settimana per lo speciale di Capodanno. Buon Natale a tutti, ciao Franco. E con i consigli di Fil TV siamo arrivati alla fine di questa cavalcata natalizia, con tutto il cinema da vedere in questi giorni di Natale, quando c'è magari qualche momento libero in più, anche un po' di predisposizione in più, e di cinema, come avete visto, nelle sale ce n'è davvero tanto. Io ringrazio Valerio Guslandi, che è stato come ai vecchi tempi preziosissimo curatore e soprattutto cicerone di questa passeggiata tra Guerre Stellari e Belle Sebastien. Noi però, Valerio, ci appuntamento lo diamo la prossima settimana, perché il giorno di Capodanno e il 2 gennaio si riparte, e soprattutto si guarda oltre, si guarda tutto l'inizio del 2016 per capire che cinema sarà in Italia e nel mondo. E sarà cinema, sarà tanto cinema con tanti autori. Quindi restate con noi, grazie per averci seguito. Un saluto da Franco D'Assisi.